buonasera e benvenuti a questa ultima, lo giuro, puntata di Mike FM per questa ottava stagione. Mike FM qui su Radio Kairos presso il TPO di Via Casarini, assolutamente deserto, sbarrato, riarso, quasi con l'asfalto del piazzale che ribolle. Siamo qui e siamo qui per una puntata speciale di questa serie che abbiamo inaugurato un po' ultimamente, l'altra settimana sull'Home Festival di Treviso. Adesso invece andiamo all'estero, nel senso che poi cronologicamente il primo festival dove io personalmente mi recherò e sono molto molto emozionata per questo evento sarà nel nord del Portogallo. Lo abbiamo scritto, si tratta della regione dell'Alto Minho, Portogallo al confine con la Galizia, e iniziamo con la prima band che, diciamo, in ordine di cartellone del palco principale del primo giorno, che sarà il 16 agosto, si esibirà, e sono niente po' di meno che i Wedding Present. Insomma, lo sappiamo, i festival estivi sono delle ghiotte occasioni di reunion per le band. Infatti Wedding Present, nati nell'85 a Leeds, festeggiano il trentennale dall'uscita del loro primo album, George Best, e sarà proprio questa la performance. Eseguiranno tutto l'album e infatti da George Best noi stiamo ascoltando Give My Love to Kevin. Gruppo guidato da David Gedge, come molti altri casi, insomma, l'elemento costante della band. Infatti su Wikipedia, se vedete, i membri della band sono 4, i past members sono tipo 22. Giorno del festival è mercoledì 16 agosto per 4 giornate di musica. La prima giornata funzionerà solo il palco principale, il palco Vodafone. Infatti dal 2013 è il main sponsor di questo festival, che però si contraddistingue perché ha sempre mantenuto veramente un'indipendenza, una direzione artistica assolutamente indipendente. Nato appunto dall'idea di un gruppo di amici di questo che è un paesino di meno di 10.000 abitanti, appunto nell'Alto Minho. I centri principali più vicini sono quello di Valença, beh, un po' più grande, e poi insomma le città Vigo in Galizia, appunto in Spagna, e Porto. Nel 93 nasce questa esperienza, questo gruppo di amici che decide di passare un buon boccato, cioè organizzare una roba per stare bene. E nel giro di 9 giorni, col patrocinio del comune, riescono ad attirare sulle rive del Rio Coura, che poi insomma è il fulcro di tutto, 2000 persone, prima edizione 5 band locali, per diversi anni solo band portoghesi, che ricordiamo un fermento musicale costante e forse addirittura crescente, se fosse possibile, nel senso che essendo una popolazione esigua, la quantità di gente dedicata alle arti, alla creazione, che sia musicale, artistica, illustrazione, disegno, grafica, eccetera, è veramente, veramente percentualmente rilevante. Ovviamente per motivi di tempo non possiamo ascoltare tutte le band in cartellone, come sempre Might FM opera una scelta in base ai propri gusti. Il cartellone ci dice che il nome più piccolino, quindi i primi ad esibirsi, saranno i Wedding Present, seguiti da Mao Morta, un gruppo storico del rock alternativo portoghese, e poi, sempre rimaniamo in Gran Bretagna, i Beak, che stiamo ascoltando con questo ultimo pezzo, singolo per ora pubblicato a tanta distanza, il loro ultimo lavoro, ovvero Sex Music. Forse più facile del solito per questo progetto parallelo di Geoff Barrow dei Portishead, insieme a Bill Fuller e Will Young, hanno pubblicato due album, il primo Beak, che poi stilizzato con il segno del maggiore, che è appunto simbolo del becco, e il secondo album Doppio Becco nel 2012, quindi forse arriverà un terzo. Noi l'abbiamo già visti, credo, un paio di anni fa, se non no, solo l'anno scorso, al Primavera di Porto. Insomma, questo, che sia un pezzo stand alone o che sia l'anticipazione di un nuovo album, ci piace. Vocale assolutamente riconoscibile, quello di Samuel T. Herring dei Future Islands, che hanno fatto il botto 2 anni e mezzo fa più o meno. Gruppo, si direbbe, tipo di synth pop da Baltimore, attivo dal 2006, ma invece hanno dovuto faticare un po' fino al 2014-15, forse anche grazie al contratto con la 4EDI, per appunto sfondare con il pezzo Seasons Waiting on You. Credo anche che sia stato, sì, la miglior canzone dell'anno per Pitchfork. Devo dire che a me personalmente la voce dà un po' fastidio, però questo pezzo, appunto tratto dall'ultimo album The Far Field, il singolo Ren, è molto piacevole. E saranno insomma loro, diciamo, gli headliner della prima giornata del 16 agosto del Parade de Coura, che però vede in realtà come primo evento quel giorno l'apertura, diciamo l'inaugurazione ufficiale della 6 giorni accademica e scuola du rock, scuola del rock, ovvero 6 giorni in cui i giovani musicisti seguiranno un programma intensivo, appunto di 6 giorni di formazione, sperimentazione, condivisione, facendo prove, formazione che comprende anche sessioni di cinema, jam sessions, showcase, insomma. E tutto questo nell'ambito comunque della celebrazione della 25esima edizione, quindi un traguardo veramente di tutto rispetto. Potremmo dire che forse storicamente, anche diciamo come coming of age, come esperienza dei giovani portoghesi, insomma Paredes de Cora può essere tipo come Reading o Glastonbury, insomma il grosso festival col campeggio dove vai con gli amici, forse la prima volta che ti lasciano uscire da solo di casa. While the grandmothers haggle with the market men, here where the kids play and laugh until they fall apart. It's kiss chasing, dancing till it's mistakes in darkened rooms. Too fast, too soon, too slow, too long. Move around all day. Ma chi è che stiamo ascoltando? Una giovane, beh, adesso 31 anni, però insomma ancora giovane nel senso che si è già distinta nel panorama letterario. Overflowing plant pots, French pots, decorated. Poetessa, artista di spoken word e autrice teatrale, parliamo di Kate Tempest, londinese, rapper, musicista. Io ho avuto occasione di vederla qualche anno fa a Elita, al teatro Franco Parenti. Ha già ricevuto tantissimi riconoscimenti appunto in ambito letterario, ha scritto 3 opere teatrali, un romanzo e 3 album e 2 libri di poesie, ovviamente. Il pezzo che stiamo ascoltando infatti è, si direbbe, un concept album, è Let Them Eat Chaos del 2016. Questo pezzo è Lion Mouth Door Knocker. Praticamente si racconta la storia di 7 personaggi che abitano nella stessa strada, che non si conoscono, quindi ogni pezzo è un po' il ritratto, i pensieri di questi personaggi. E tutto ruota intorno a un'ora, alle 4:18 del mattino, quando a un certo punto poi scoppia un temporale, una tempesta, e tutte queste persone escono di casa e si trovano gli uni davanti agli altri per la prima volta, si vedono. E andarsi a leggere tutte le storie, perché comunque appunto sono come racconti brevi ogni canzone, è molto molto interessante. Raccomando sempre la risorsa Genius Lyrics per trovare i testi. Kate Tempest, pezzo finito in fretta e troncato così com'era. Anche Kate Tempest è la prima serata in orario più notturno dopo i Future Islands e si passa idealmente a giovedì 17 agosto, quando i palchi in azione saranno 3: il palco principale, il palco Vodafone e poi il palco Vodafone FM, perché ovviamente uno dei partner, media partner, è la radio, sempre creata dalla Vodafone. Non mi stanco mai di dire che quello che per noi è alternativo in Portogallo è più o meno mainstream, e Vodafone FM è l'emittente radiofonica più indie alternativa che si possa immaginare, che opera in 3 città, 3 frequenze, ovviamente il sito, quindi si può sentire anche da Bologna, vodafone.fm, ascoltate Radio Caros e Vodafone. Si ascolta a Lisbona, a Porto, a Coimbra, e per l'ordine di esecuzione della giornata abbiamo deciso di partire appunto da quello che è il palco minore, gli orari non li sappiamo, ci saranno delle sovrapposizioni, che ce ne frega. Iniziamo con i Sunflower Bean, che anche loro abbiamo già visto al Vodafone Mesh Fest lo scorso novembre a Lisbona. Giovanissimo trio di Brooklyn, nato nel 2013, Nick Kiblen, voce e chitarra, Jacob Farber alla batteria e Julia Cumming, lei cantante e modella, bassista, una presenza statuaria altissima con questo mezzo caschetto biondo platinato. Già nella compilation mixata che facemmo per il Vodafone Mesh Fest avevamo messo due pezzi tratti dal loro unico album Human Ceremony del 2016, adesso ne stiamo ascoltando un altro, Come On. Avevamo messo i due pezzi che poi costituivano il singolo, che era come una doppia A-side, pezzi molto molto carini, loro sono super energici. E questo, come dico sempre, mi piace andare ai festival, occuparmi di festival, perché scopro tante cose che non conosco. E una di queste è questa band, sempre americana. Diciamo che anche la programmazione Vodafone FM è molto molto concentrata sulla musica americana, ma anche australiana direi. Sono i Nothing, nome così, niente. Da Filadelfia. Può sentire almeno in questo pezzo un classico grunge rock. Sono attivi dal 2010 e il suo fondatore e cantante Dominic Palermo faceva prima parte di una band hardcore, erano anni insomma un po' turbolenti, infatti durante una rissa Palermo accoltella un altro uomo e passa 2 anni in galera per lesioni aggravate e tentato omicidio. Quando esce, insomma, volta pagina. Secondo album, il primo nel 2014, il secondo del 2016, Child of Tomorrow, da cui stiamo ascoltando ACD, Obsessive Compulsive Disorder, che in realtà non esiste, nel senso che io ho trovato questa sigla ACD, questa parola obsessive, solo relativa a questa canzone, ma Nothing. Paredes de Cora, come dicevo, è diventato in 25 anni uno degli appuntamenti principali dell'estate portoghese, che ovviamente per la sua posizione cattura anche tanto tanto pubblico spagnolo, e io spero, non perché abbia nessun interesse personale ovviamente, che venga anche scoperto dagli appassionati italiani, visto che sempre più italiani vanno in vacanza in Portogallo. Questi ultimi mesi sto praticamente facendo da consulente consigliera di posti dove dormire, dove andare, dove ballare, dove mangiare, eccetera eccetera, perché ho un sacco di amici che anche in questo momento, ciao Claudio, ciao Carmine, sono in Portogallo. E quindi, visto che spesso la gente fa Porto o Porto e Lisbona, comunque potrebbe essere un'interessante deviazione o integrazione ad una vacanza, perché appunto la area a livello naturale paesaggistico è meraviglioso, c'è questo anfiteatro naturale, io non l'ho ancora visto, però ho letto molto, ho visto molto, che appunto è un palco naturale con il fiume, con tantissimo spazio anche per il campeggio, come tutti i festivaloni, insomma, di grandi esperienze di festival, secondo me, quando è una certa età, comporta anche appunto rotolarsi un po' nel fango, dormire in tenda e fare le docce tutti insieme, come per tanti anni abbiamo fatto anche io e i miei amichetti a Benicassim. E poi perché ci sono dei prezzi che sono ancora economici per noi italiani. In generale i prezzi dei festival in Portogallo sono bassi, e in questo caso particolarmente bassi, quindi è veramente, ha tutte le caratteristiche per essere un evento di forte, forte attrattiva, perché poi appunto anche i nomi in cartellone sono di tutto rispetto, e se uno scorre le passate edizioni può veramente vedere confermato questo fatto. E chi stiamo ascoltando? Chi è un'altra delle band che si esibirà nel palco Vodafone FM? Le abbiamo ascoltate in realtà poco tempo fa nella trasmissione dedicata al Today's Festival di Torino, che ci sarà il 25, il 26, 27 agosto e che quindi seguirà immediatamente la nostra esperienza portoghese, ovvero i canadesi Timber Timber. Canadese proveniente da Toronto e Montreal, il nome viene da appunto questo capanno dove hanno registrato le loro prime cose. E sempre dall'ultimo album di quest'anno, Sincerely Future Pollution, stiamo ascoltando Skin Tone, mentre l'altra volta abbiamo ascoltato Grifting, un pezzo molto più, diciamo, aggressivo e mosso. Questo è un pezzo strumentale abbastanza languido. Ma come dicevo, la scena portoghese musicale è sempre stata molto ricca, tanto è vero che ogni anno la FNAC portoghese raccoglie in un doppio e a volte triplo CD i pezzi dei novos talentos, ovvero i talenti emergenti, poi magari non fanno tanta strada, però almeno uno dei loro pezzi viene pubblicato, viene dato, insomma, riconoscimento e rilievo. E invece una delle band che già esiste da diversi anni e che è arrivata al terzo album dopo un primo EP del 2010 sono i lisboeti You Can't Win Charlie Brown. Non puoi vincere Charlie Brown. Insomma, grazie alle nostre frequentazioni portoghesi già li conosciamo da un po' di tempo. Hanno pubblicato un ultimo album, Marrow. Nel 2016 ascoltiamo uno dei singoli, Above the Wall, ovviamente sempre molto suonato a Vodafone FM, e tra l'altro album pubblicato per Sony Music Portugal. By over the wall, and I'm not Ponce Cabral, Salvador Menezes, Tomás Sousa, David Santos e João Gil. Anche se in foto sono sempre sei. Coro, un festival che nasce come festival di culto e che ha assunto sempre più importanza e anche riconoscimenti da, diciamo, gli enti specializzati in festival, come per esempio i Europe Festival Awards, che più di una volta lo hanno nominato come miglior festival di grande dimensione e come festival preferito dagli artisti, che non è assolutamente una cosa secondaria. Quindi dal 93, 5 band, poi sempre qualcuno in più, qualcuno in più. E voglio dire, come biglietto da visita, non stupisce che nel 96, quando già si era passati mano a mano, sì, da un giorno a due giorni, e poi nel 96 a tre giornate, il primo ed unico gruppo straniero non portoghese fossero gli Shed Seven, cioè non esattamente, insomma, il gruppo più famoso e conosciuto della scena Britpop, anche abbastanza di nicchia, quindi insomma per indicare come veramente, forse anche un po' come sia Stamplugged, riuscire a far venire a casa tua i tuoi gruppi preferiti. Perché poi i portoghesi hanno questa cosa che scoprono delle band, sono super appassionate, sono super fan e creano un seguito molto molto numeroso immediatamente per band appena emergenti. Infatti penso che abbiano intercettato prima di altri posti delle band che erano appena uscite fuori, per esempio gli Arcade Fire. Fine Timber Timber ci trovavamo nel palco Vodafone FM, idealmente quando la prima band a esibirsi nel palco principale saranno You Can Win Charlie Brown, seguiti dai Car Seat Headrest, che non ascoltiamo un po' perché non ci hanno mai molto fatto impazzire e un po' perché insomma bisogna fare una selezione. Però sicuramente un nome forte come attrattiva per i giovani rocchettari. Ricordiamo il concerto incendiario infatti al Primavera di Porto, con appunto una folla scatenatissima. E un altro nome molto atteso è King Krul, al secolo Archie Marshall, tant'è vero che il secondo album è stato pubblicato a suo nome. Si tratta di A New Place to Drown del 2015. Stiamo ascoltando Rise, Dear Brother. Slip, you slipped and slide, let the sky inside. What a cling remind that night she lied. Girl, it reminds me of why she's not my kind. Damn, that this time. Came back to haunt me sometimes. Giovanissimo, anche lui cantante, rapper, cantautore, produttore. Ragazzino precoce e abbastanza incasinato. 22enne solo adesso. La musica che fa è stata definita molto molto influenzata dal jazz, jazz fusion, punk jazz, ma anche post punk, hip hop, trip hop, dub, come si può sentire un po' in questo pezzo. È stato paragonato soprattutto per la voce, direi, a Edwin Collins. E dopo diversi EP dal 2010 c'è stato il primo album nel 2013 e poi appunto il 2015 quest'altro album a suo nome, ma uno dei gruppi assolutamente attesi con più trepidazione perché riformatisi dopo tanti tanti anni sono At The Drive-In. Cioè dal 94 quando si sono formati a El Paso, poi sono sciolti nel 2001 dando vita ad altri progetti come per esempio Mars Volta. In realtà si erano rimessi insieme nel 2011-2012, poi li vedo abbastanza litigiosi, forse anche un riflesso o viceversa della musica che fanno post-hardcore, art punk. Ma adesso non solo hanno fatto una seconda reunion, ma hanno anche fatto per la prima volta dopo tanti anni un disco nuovo di originali, ovvero Inter Alia, scritto in pallino ter pallino a li a. Anche questo è uno dei casi, come dico sempre, in cui come è scritto proprio l'aspetto grafico di un nome o di un titolo è importante, perché comunque abbiamo sempre uno schermo davanti agli occhi. Insomma, la formazione attuale: Cedric Bixler, Omar Rodriguez, Paul Hinojos, Tony Ajar e Kili Davis. E il pezzo che abbiamo scelto da Inter Alia, come sempre ci capita perché appunto si sa, a noi non ci piacciono i suoni tanto incazzati, è questa Incurably Innocent, secondo singolo tratto da quest'album uscito quest'anno, dove si parla di abusi sessuali e del coraggio di parlarne. Quindi messi da parte Mars Volta e gli Sparta, altro progetto successivo al primo scioglimento del 2001, gli At The Drive-In sono rimessi insieme. L'avevo nominato un po' di tempo fa, mi hanno detto ma sei sicuro che non hanno cancellato, perché sembrava che si stessero già risciogliendo. Poi pare che sia già successo al City Sound System, che adesso esce un disco nuovo, però già si sono risciolti nell'acido. Lovers, bored in the dark. dicevo prima dell'aspetto naturalistico di Paradise Decora, di questo grande spazio campeggio collegato alla zona del recinto da questi due ponti che passano sul fiume. E infatti tutti i video che si trovano, la gente che campeggia passa il tempo anche con questi canotti, liane, amache, insomma tutto in mezzo al fiume, vicino al fiume, cascatelle varie. E io spero solo che non piova, perché il nord del Portogallo e la Galizia sono un po' come l'Irlanda. Infatti, visto che io e Ana non passiamo dal Via e andiamo praticamente da Siracusa a Paradise Decora, abbiamo inviato una valigia con dei vestiti pesanti attraverso i genitori della nostra carissima amica Claudia, che saluto, che ci ospiterà. E il campeggio apre già dall'11 agosto, cioè il festival ufficialmente inizia il 16, il campeggio apre l'11, tra l'altro sono anche un sacco di riduzioni del 25% per i viaggi in autobus, insomma tutto per favorire la partecipazione, la condivisione di questo evento, che poi sarà anche preceduto, come se non bastasse, il festival inizia il 16, 17, 18, 19, anzi all'inizio erano tre giorni, poi si è aggiunto questo quarto, e non contenti, già il 12, il 13, il 14, il 15 c'è cioè Festival Sobre a Vila, cioè il festival esce nel paese con concerti ogni giorno di band portoghesi. Ma chi è che stiamo ascoltando? Non l'abbiamo mica detto. È Nick Murphy from Down Under, ovvero Australia, Sydney. Meglio conosciuto, perché voglio dire, lui adesso ha scelto di suonare e pubblicare col suo nome vero, Nick Murphy. Ma alla fine scrivono sempre tra parentesi Chet Faker, perché è così che è diventato famoso. Devo dire che l'ho visto una volta al Club to Club per un DJ set che ha fatto veramente cacare. Però questo pezzo che stiamo ascoltando non è male, si chiama I'm Ready, il pezzo che ci è piaciuto di più dal suo ultimo EP, che peraltro invece è molto molto vario, Missing Link. E sicuramente anche lui è un nome che richiama molta gente. Dicevo appunto che il 12, 13, 14, 15 per già la gente che sta in campeggio, tre live al giorno, tra cui appunto dei nomi che io conosco perché molto suonate a Vodafone FM, tipo Nice Weather for Ducks, Alec Crane, molto bravo, insomma tutti gruppi portoghesi, ma c'è anche un po' d'Italia. In maniera moderata, non molto calcata, ma comunque necessaria, c'è sempre un programma notturno più danzereccio. E nel palco attamente nominato After Hours, la sera del 17 ci saranno i Jean Binai, questo trio, due ragazze e un ragazzo sudcoreani, molto molto interessanti, molto abbastanza sperimentale anche noise, quindi non esattamente clubbing, ma clubbing sicuramente, il clubbing è la materia di Marvin and Guy. Al secolo Alessandro e Marcello from Parma. come spesso accade, DJ appassionati di musica che iniziano a fare delle serate nella propria città. Marvin e Guy avevano una serata che si chiamava Apartment, che era tutto su disco, musica disco underground legata a realtà del passato come il Paradise Garage, insomma i templi della house, e poi hanno cominciato a fare delle loro produzioni originali anche pubblicando per l'etichetta di John Talabot, per esempio. Quest'anno hanno pubblicato 2 EP già. Uno dei quali è Superior Conjunction. Stiamo ascoltando la title track, ovviamente in versione accorciata. Abbiamo detto, partendo dal 93, dopo 5 anni si comincia a fare il primo salto di qualità, aumentando la dimensione del festival, aumentando il numero delle band e anche insomma, il livello dei nomi. Già nel 98 Red House Painters, Divine Comedy, Tindersticks. E poi nel 99 la voce di Wikipedia la definisce un'edizione da apoteosi con Deus, Gomez, Suede, Lamb. Ricordiamo che fin dall'inizissimissimo in Portogallo i Lamb hanno avuto un seguito pauroso proprio nelle classifiche generali, in altissimi posti. E questo, per esempio, è uno dei gruppi portoghesi, diciamo, un po' più derivativi, nel senso che le band portoghesi hanno questa roba, riescono a riprodurre perfettamente le loro band preferite, il suono di altre band. Per esempio, questi sono Cave Story e questo pezzo è Super Pavement, come l'altro singolo di questo album è Super Parquet Courts. Però sono bravi. Anche questi tutti pezzi scoperti ascoltandoli guidando per le strade di Lisbona a Vodafone FM. L'album del 2016 si chiama West, questo pezzo si chiama Body of Work, loro sono i Cave Story. Saranno la prima band che, siamo arrivati al venerdì 18, si esibiranno al palco Vodafone FM. E poi c'è questa cosa molto intelligente, cioè in Italia i festival sono tipo venerdì, sabato, domenica, e invece in Portogallo sono sempre giovedì, venerdì e sabato, o mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, in questo caso perché c'è sempre sacrosanta la domenica del ripiglio, mentre molte volte in Italia la domenica non te la fai perché devi tornare a casa o devi lavorare il giorno dopo. altro questa fine così, questo basso mi ricorda qualcosa di molto molto antico. Olivia, aiutami. Proprio copiato, il basso così. Però sulla punta della lingua. E adesso un pezzo che a me piace tantissimo, di un artista che è veramente di una delicatezza unica, canadese della provincia del Saskatchewan, adesso sta a Toronto, da Regina, è Andy Schauf. Schauf. Prima infanzia, Wikipedia dice, suonava musica cristiana con i suoi genitori che gestivano un negozio di elettronica e di musica, per cui ha avuto accesso a tanti strumenti. Non so quanti anni abbia, ma ha iniziato a suonare nei primi anni 2000, suonando la batteria per una pop punk band cristiana fino al 2006, però poi vedi, indie pop, folk rock, pop barocco, suona la chitarra, la batteria, il clarinetto. Anche questo album ha suonato tutto lui, ha ricevuto un sacco di riconoscimenti in Canada, dei premi dedicati, insomma, come il Grammy o il Mercury, il Polaris Music Prize. Ha fatto già 3 album, l'ultimo dei quali The Party nel 2016, e stiamo ascoltando la bellissima Early to the Party. Non solo l'accento, ma il modo di pronunciare le parole è molto particolare. Tra l'altro, questo album è stato pubblicato, il primo suo album pubblicato per Arts and Crafts, diciamo proprio la casa dell'indie canadese, ovvero Broken Social Scene e dintorni. ancora idealmente sul palco Vodafone FM di venerdì 18 agosto e dopo Cave Story e Andy Schauf, un altro duo americano, il duo della luna, Moon Duo, che vidi, se non erro, qualche anno fa all'Anabi. Attivi dall'inizio del secolo, Eric Ripley Johnson già nei Wooden Ships e Sanae Yamada da San Francisco, psychedelic kraut rock, che hanno pubblicato quest'anno due dischi uno dietro l'altro. Ovvero Occult Architecture volume 1 e volume 2, come se fossero appunto due dischi complementari, Yin e Yang, il bene e il male, per esplorare l'oscurità e la luce nella loro musica. E noi abbiamo scelto il pezzo oscuro, Will of the Devil, la volontà del diavolo, ma anche il testamento del diavolo. Ovviamente, e lo sappiamo, l'abbiamo visto anche qui a Bologna, quando un festival vuole crescere deve prendere dei rischi, a volte va bene, a volte va male. È stato appunto nel 2000 che per il festival Paradise Decora non è stato un grande anno, perché nonostante i nomi internazionali in cartellone tipo Zezé, Io la tengo, Ash, Mr. Bungle, Coldplay, Flaming Lips, fu un'edizione che finì in passivo, ma non hanno mai perso l'energia e la volontà di andare avanti, anzi intercettando poi all'inizio degli anni 2000 un po' il genere che stava emergendo. Di gruppi più legati al rock un po' più duro che stava prevalendo in America, come tipo i Korn. O Queen of the Stone Age, che sono ritornati diverse volte, Stone Temple Pilots nella loro unica esibizione in terra portoghese. Ma rimaniamo sempre il venerdì 18 come band principale del Vodafone FM, un gruppo che a me piace molto, e che abbiamo già visto al Vodafone Mesh Fest nello scorso novembre. Sono due fratelli di Lisbona, Leo e Bruno, ovvero gli Octapush. Hanno pubblicato l'anno scorso un album, loro secondo album credo, Lingua, e questo pezzo l'avevamo già messo nella compilation dedicata a quell'evento. Lingua, uno dei pezzi che ci è piaciuto di più del disco, abbiamo voluto riproporre un piccolo pezzo, poi seguito da un'altra traccia dell'album, Mana. Book céu desabou, dá-o fumo vento, fundo fumo, come vento, neva nada, dá-o pão à água, lasca da estrela explodida, uiva e grita, cadê tua língua? Na comina e cliente, na ligue cobina. Na comina e andaco, na ligue cobina. Sale zembonini, bongo se coio. Paluca, paluca, paluca cope mate. Bina, bina. Na comina fete, na ligue cobina. Na comina e cliente, na ligue cobina. Na comina andaco. Un gruppo che è come Buraca Sound System integra le influenze degli altri popoli, la musica degli altri popoli di lingua portoghese che vivono a Lisbona, principalmente in questo caso la musica angolana, il kuduro. Il Libranco, Buraca Sound System, Octopus, tutta musica che io ho imparato veramente ad amare. Perché a volte le cose non ti piacciono, non sai neanche se non ti piacciono, se non ci sei mai stato esposto. Na comina andaco na ligue copina. Sale zembonini, bongo si coio. Paluca, paluca, paluca cope mate. Bina, bina. Torniamo alla programmazione del palco principale. Come succede anche per le band portoghesi che si esibiscono a Primavera Sound di Porto, che ovviamente non sono quasi mai a Barcellona, ma che aprono sempre la programmazione del palco principale. Anche in questo caso c'è uno dei nomi, insomma, più established del panorama portoghese, ovvero Bruno Pernadas, che già avevamo conosciuto con il disco precedente. Questo pezzo che appunto si ascolta molto su Vodafone FM è tratto dall'ultimo album, che si chiama Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them, ovvero coloro che gettano oggetti ai coccodrilli sono pregati di riprenderseli. E questo pezzo si chiama Anywhere in Space Time. Un suono sicuramente retro per un musicista, Bruno Jorge de Oliveira Pernadas, nato a Lisboa nel 1982 e diplomatosi in musica alla Scuola Superiore di Musica di Lisbona nel, diciamo, sezione jazz, quindi forse anche amico di Salvador Sobral, il vincitore dell'Eurofestival, che insomma per causa della sua formazione jazz è un po' snob nei confronti del resto della musica. E la sua biografia dice anche che ha partecipato in numerosi festival musicali anche in Italia e Brasile. Il disco precedente con cui l'avevamo conosciuto era anche abbastanza particolare come titolo, How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge? Come possiamo essere gioiosi in un mondo pieno di conoscenza, che è beata ignoranza. Tra l'altro poi nel 2016 quest'album non è stato neanche l'ultimo che ha pubblicato, ne ha pubblicato un altro che si chiama Worst Summer Ever, cioè l'estate più brutta di tutte. E oltre a essere un musicista, un compositore, un arrangiatore, freelance, quindi tante progetti e collaborazioni, insegna anche teoria musicale, chitarra in diverse scuole di musica a Lisbona e c'ha la faccia veramente da bravo ragazzo occhialuto. Tra l'altro penso che forse anche lì l'abbiamo già visto a Primavera Porto, penso di sì. Insomma, dopo aver intercettato un po' la scena new metal o metal alternativo dei primi anni del 2000, c'è piano piano un ritorno, diciamo, alle origini, alla musica più amata dagli organizzatori del festival, che sono sempre appunto questo gruppo di amici. Guidati da João Carvalho, non so se l'abbiamo mai incontrato, con Claudia e Jorge e Ana, ma forse lo conoscerò. E l'abbiamo sfumata questa Anywhere in Space Time perché era molto lunga, ma appunto ne abbiamo potuto godere abbastanza da capire lo stile di Bruno Pernadas. E come Nothing, un'altra scoperta, ma molto più interessante perché fanno della musica molto molto più particolare, è quella dei Young Fathers, questo trio di Edinburgh. E il loro ultimo disco del 2015, che si intitola White Men Are Black Men Too, ci è piaciuto così tanto l'ascolto che, come spesso accade, non abbiamo saputo scegliere tra due pezzi e li abbiamo mischiati insieme. Il primo è Nest, il secondo è Rain or Shine. Yeah. vengono definiti hip hop e pop. La versione italiana in Wikipedia dice: sono un gruppo rap, che non credo. Dicevo, Edimburgo, attivi dal 2008. Hanno pubblicato per Ninja Tune, Anticon, insomma, diciamo l'elite delle etichette a cavallo un po' con la musica sperimentale e l'hip hop più sperimentale. Disco, devo dire che è molto vario. Il pezzo di prima, diciamo, era quello più semplice, pop, diciamo forse anche solare. Questo pezzo ricorda, come in altri casi, molto i TV on the radio, e non è male. Graham G. Hastings, da Edimburgo, Aloysius Massaquoi, originalmente della Liberia, via Ghana, e Caius Bancole, di Edimburgo, ma di genitori nigeriani, cresciuto anche negli Stati Uniti prima di andare a Edimburgo. Due album in studio, 2014 Dead e questo è il 2015, che appunto si intitola Anche gli uomini bianchi sono uomini neri. Sì, dipende appunto dalla tua classe sociale. Veramente un bel disco. Finisce questa Rain or Shine dei Young Fathers, scoperta veramente interessante, e passiamo a uno dei nomi principali per noi di grandissima attrattiva, che ogni paio d'anni insomma li dobbiamo vedere. Hanno pubblicato quest'anno un disco di B-sides e rarità, versioni alternative, remix di pezzi vecchi, pezzi che non sono entrati negli album, nati nelle sessioni di album come Bloom o Teen Dream, oppure pezzi che non sono entrati in nessuno dei due album che hanno pubblicato nello stesso anno. Cioè nel 2015, dopo Depression Cherry, segue Thank You Lucky Stars, eppure questa bellissima Chariot non c'è entrata. Ovviamente per noi sono i Beach House from Baltimore, Victoria Legrand di origini francesi e Alex Kelly. Dal 2010, quando l'abbiamo vista la prima volta, è veramente sempre un piacere, e penso che appunto la cornice del festival Predest Cora, tra gli alberi e la natura e il fiume, sarà veramente speciale. Thank you. Marriott dei Beach House. Come ho detto prima, non stiamo ascoltando tutti i gruppi che si esibiscono al festival perché non c'è abbastanza tempo. Quindi, per dovere di cronaca, diciamo che dopo Bruno Pernades e Young Fathers ci saranno i Bad Bad Not Good, che vedo che sono molto molto quotati, ma veramente it's not my cup of tea, come si dice in inglese. E poi ho Noea Mignassena, come si direbbe forse in portoghese, e poi Japandroids è stato uno degli ultimi gruppi ad essere stati annunciati, perché io suppongo abbiano sostituito, anzi sono praticamente certa, abbiano sostituito i Chic Chic Chic, che sono stati invece uno dei primissimi gruppi ad essere annunciati, ma che a fine maggio hanno dato forfè. Infatti il primo annuncio è stato fatto il 30 novembre con questa mezz'ora di diretta live, alla fine della quale si sono illuminati questi due alberi, molto Twin Peaks, alla voce "se gli alberi potessero parlare", si accendono queste luci, queste scritte sugli alberi, dove c'erano a Falls, Carsi Tedrest, Benjamin Clementine e Ty Segall. Quindi abbiamo anche anticipato dei nomi che dobbiamo ancora ascoltare. Poi sono state annunciate appunto Chic Chic Chic, Beach House, Bad Bad Not Good. Mi confermano che Naoya Mignassena è l'espressione giusta. E poi, per annunciare dei nomi successivi, si sono inventati questi video molto molto brevi, molto divertenti, che ti danno proprio la misura di quanto sia un paesino imboscato nella campagna, dove sono tutti, cioè come se fosse un paesino di 10.000 abitanti, tipo della Barbagia, tipo la Coppola. Parlano questo dialetto strettissimo, stradine piccole, baretti dove si passa il tempo, si conoscono tutti. C'è il video di annuncio di King Krull, che c'è uno che si sta facendo la barba dal barbiere e dice: come si dice nei paesi, no? Hai presente quello? E dice: no, non ho presente, non lo conosco. Ma sì, dai, quello che è il cugino del fratello, della nipote, del collega, dello zio. No, no, non ho capito chi è. Ma come, quello che andava con l'amico, che poi si è sposato, che ha fatto un figlio, però poi ha perso il lavoro? Cioè, no, non so chi è. Ma dai, alla fine dice: ma dai, quello che c'è il figlio che ascolta sempre King Krull. Ah, certo, capito, potevi dirlo prima. E questo pop tutto così solare, quasi appunto da spiaggia, che ce lo possiamo immaginare mentre siamo su un lettino, un canottino sul fiume, e in realtà è di un musicista tedesco, nome d'arte Roosevelt, Marius Lauber. L'abbiamo già sentito a Made FM perché l'abbiamo visto a Primavera San Porto di qualche anno fa, da Colonia. Ha fatto tanti singoli ed EP, un solo album, Roosevelt. E qui stiamo ascoltando l'ultimo singolo che ne è stato tratto ancora quest'anno, Belong. Molto molto carino lui, molto molto gradevoli tutte le sue canzoni. A cavallo appunto tra la canzone pop e il pezzo dance, ma sempre molto morbido. Comunque, dicevamo, Japandroids, chi ci segue lo sa, che non ci fanno tantissima simpatia. L'abbiamo già ascoltato una volta col singolone dell'ultimo disco per il Primavera Sound, che poi non abbiamo visto in live perché c'era qualcosa che ci interessava di più, quindi non li abbiamo ascoltati, Japandroids, poi Beach House, e per l'After Hours Roosevelt e il duo di Tel Aviv Red Axis, che non ascoltiamo. L'abbiamo sentito per Spring Attitude, immagino, e questo qui è uno dei pezzi del mio cuore, della vita. Sta stata una grandissima sorpresa sapere che ci sarà anche lui. Non pensai che fosse facile, stava tan longe, o che eu idealizava. Os meus planos eram claros, mas perderam-se na noite. A mão que segurava me empurrou. Eu pensei que fosse fácil, mas estava a acreditar. Lançar-me à vontade. Pedras no caminho, alguém que me esperava. Eu pensei que fosse fácil, mas tens que me ajudar. Meu coração é frágil e tarde em levantar. Sei que fosse fácil, sem mal, sem dor nem fel. Um laço apertado, um barco de papel. Si tratta della prima canzone che ho imparato in lingua portoghese. Lui è Walter Lobo. Questo pezzo bellissimo è stato pubblicato in un EP del 2013, ma in realtà, come abbiamo detto prima, già era stato rilevato dal radar della FNAC, che l'aveva già inserito nella compilation dei nuovi talenti del 2012. E perché l'ho appena saputo che ci sarà anche lui a Paredes de Cora? Perché suona nell'ambito di una delle tante attività collaterali che circondano gli eventi principali sui palchi principali, ovvero palco Jazz na Relva, ovvero Jazz nell'erba, che è una novità del 2017, ovvero un invito alla scoperta di nuovi progetti nel tardo pomeriggio o nel pomeriggio dei giorni del festival. Il 17, il 18 e il 19 ci saranno due band per giorno, e appunto l'ultimo giorno, sabato 19, ci sarà Walter Lobo. Sono molto contenta. Ed è con Walter Lobo che abbiamo idealmente inaugurato la giornata della programmazione del giorno ultimo, sabato 19, e poi il 20 ci si riposa, perché poi il 21 all'alba già si ritorna a casa, io ahimè tutta sola soletta su Zigne. Perché nel palco Vodafone FM c'è un'altra band portoghese, i Toulouse, che hanno pubblicato nel 2016 un album dal titolo Young. Questo è uno dei singoli, Juniper. João Silvestre, Rui Pacheco, Nuno Duarte, Francisco Neylor, genere smooth punk, a me mi sembra appunto un indie pop rock molto classico e delicato. Un po' shoegaze, anche un po' motoric nelle percussioni, anche un po' dive, quindi quello che è un po' un'istituzione della musica alternativa portoghese, ovvero João Vieira, DJ, musicista, produttore. Ha iniziato la sua carriera a Londra alla fine degli anni 90, dove lavorava come DJ, musicista e promoter di club. Poi in Portogallo ha pubblicato 4 album con nome Ex-Wife. Poi ha assunto il nome di DJ Kitten a Porto, dove ha gestito un club, il Club Kitten, e poi ha inaugurato questo suo alter ego White House, molto influenzato a nostro parere dei pezzi precedenti che abbiamo conosciuto dai LCD Sound System. Potrebbe essere insomma l'equivalente del One Man Project tipo James Murphy. Abbiamo già visto al Primavera Porto e l'abbiamo anche visto che si aggirava all'Art Club nella serata precedente all'inizio del Primavera Porto, essendo appunto una local personality. Ha pubblicato un disco nel 2016, Modern Dancing, e questa canzone si chiama ironicamente Greatest Hits. Tutti i testi sono molto ironici. Insomma, abbiamo detto dell'area campeggio che quest'anno ha subito molte migliorie, l'abbiamo visto nella cartella stampa, c'è molta attenzione al benessere, al benstare, al poter apprezzare proprio al massimo lo spazio unico in cui è inserito questo evento. Ma tra le altre novità c'è la biblioteca digitale, che è una novità perché si sono accorti che molta gente che sta lì nei prati o sulla riva del fiume spesso ha un libro in mano. Per questo hanno creato la biblioteca digitale Vodafone, che mette a disposizione gratuitamente per il download più di 40 opere da poter ovviamente leggere via smartphone, tablet. Reader. Ma non abbiamo mai detto che sì, Paredes Cora, Fiume Cora, ma l'area, proprio l'area ha un suo toponimo, ovvero la Praia Fluvial du Tabuau, perché sono molte molte le spiagge fluviali e anche ci sono dei premi dedicati ogni anno alle spiagge migliori di qualsiasi tipo: le spiagge urbane, le spiagge selvagge, le spiagge attrezzate e le spiagge... Sì, il Kindle è un e-reader, il Kindle è una marca. Anna mi sta richiamando dicendo Kindle, sì, è come Kindle, è un marchio, come dire Rimmel per dire mascara, giusto? Lovers having short careers, I wonder if they harbor fears. E un altro evento collaterale è Vodafone Voces da Escrita, ovvero degli incontri con degli scrittori giovani portoghesi contemporanei, sempre nel palco che poi ospita Jazz na Relva. E poi una cosa che mi incuriosisce molto, un po' come i Secret Concert che si fa in giro nei vari festival, come Unexpected Primavera, che è stata tipo la cosa più parlata a Primavera di Barcellona, ovvero le Vodafone Music Sessions, che però, a differenza degli altri festival, questi sono concerti segreti, comunicati all'ultimo momento, veramente il pubblico è invitato in modo assolutamente casuale, ma che si svolgono appunto in luoghi del paese, luoghi insoliti, come abbiamo scritto anche nella nostra presentazione, tipo una vecchia segheria, una fabbrica di scarpe, una caserma dei pompieri o la casa di una coppia di ottantenni. Ok, chiedo scusa a Anna perché ovviamente io ho le chat sotto gli occhi, ma magari non le leggo in tempo reale. Mi aveva scritto e Kindle prima che io dicessi e-reader. E questo è un altro cantante, cantautore, che vorremmo vedere interamente il concerto. Siamo sempre sul palco Vodafone FM, si tratta di Alex Cameron, che abbiamo perso praticamente tutto il suo concerto in apertura a Angel Olsen qui al Covo Summer, perché sì, avevano detto quell'orario lì che era prestissimo, e prestissimo è iniziato, ho perso i primi pezzi. Ho visto solo la parte finale del concerto, spero di vederlo. Stiamo ascoltando uno dei pezzi principali e più accattivanti, più catchy del suo ultimo album, si tratta di She's Mine. Anche lui australiano di Sydney, synth pop, elettronica, indie rock. In realtà di album ne ha fatti solo uno nel 2013 e poi insomma non è stato molto notato, poi è stato invece rieditato e ridiffuso, ha attratto l'attenzione dei Foxygen, ed è assolutamente casuale, perché lo sto leggendo in questo secondo, assolutamente casuale che dopo di lui ci sono i Foxygen. Cameron attrasse l'attenzione dell'indie rock duo Foxygen mentre suonava al club parigino di David Lynch Silenzio. Poi è andato in tour con Kevin Morby, cosa che ha favorito l'entrata nella Secretly Canadian e quindi poi la ripubblicazione di Jumping the Shark. È veramente un animale da palcoscenico molto Nick Cave, molto fisico, molto particolare. Condivide il palco con altri musicisti, soprattutto la sua spalla, il sassofonista Roy Molloy. Beh, veramente casuale questo accostamento con i Foxygen. Casuale perché in programma, dopo di lui, sul palco Vodafone FM c'erano gli americani, ci saranno gli americani Lightning Bolt, che non ascoltiamo, né il primo musicista, anche lui un esponente storico della scena alternativa portoghese, ovvero Manel Cruz, che apre invece il palco principale. Foxygen era un gruppo dopo, quindi proprio grande coincidenza. Anche questo pezzo suonatissimo a Vodafone FM, Follow the Leader, pezzo di apertura dell'ultimo album di Foxygen, Hang. Praticamente i migliori imitatori dei Rolling Stones. From Westlake Village, California, dal 2005 hanno pubblicato 5 dischi, di cui 3 a distanza molto ravvicinate. Non ho mai ascoltato troppo, ma me lo ricordo, dal 2012 al 2014 ne hanno pubblicati 3. Incidono per la Jack Jaguar, Jonathan Rado e Sam France. Questo pezzo di Archi ci piace molto, molto 70s, un po' Love Boat. Ma lo studio 54 è Love Boat. Abbiamo ascoltato recentemente nella puntata dedicata a Sest Unplugged. Welcome to jungle, dear. Non l'abbiamo visto Sest Unplugged, dove ha suonato il 26 luglio, e sapevamo che l'avremmo vista per Just Cora, Benjamin, Clementine, e non Clementine. Avevamo già anticipato che dopo The Phantom of Aleppoville era già stato comunicato il titolo e l'uscita del suo attesissimo secondo disco, I Tell a Fly, tra settembre e l'inizio d'ottobre 2017. È stato diffuso un altro pezzo, perlomeno sul suo SoundCloud, God Save the Jungle. Well, lorries are chariots, railways are stairways, stairways to comunque un festival, come dicevo, poi dall'inizio degli anni 2000, dopo aver intercettato anche, diciamo, per motivi di botteghino, insomma, tutta la scena nu metal che arrivava dall'America, un ritorno alle origini, insomma, alla musica più tradizionalmente indie. Addirittura c'è stato un anno nel 2005 dove non c'è stato nessun tipo di patrocinio, ma nonostante questo in cartellone c'erano Chic Chic Chic, Pixies, Queen of the Stone Age, Arcade Fire, Nick Cave, i National. E poi da quel momento in poi veramente un'affermazione, un traguardo importante è riuscire ad avere anche Sonic Youth. Ripeto, immagino il gruppetto di amici che sogna di avere i loro gruppi preferiti che suonano praticamente a casa tua, in un paesino minuscolo, e se si vede appunto l'elenco dei nomi sempre sempre sempre più lungo. E succede spesso, come dico a volte, che i nomi diciamo più grandi che vediamo nel cartellone del Primavera Sound di Barcellona poi magari non arrivano all'edizione di Porto perché vengono un po' divisi tra gli altri grandi eventi dell'estate portoghese. Principalmente, infatti, è successo con i Radiohead, è successo con... citazione dell'inno. Come è successo appunto con i Radiohead del City Sound System o l'Optimus Alive. Optimus, ho detto, Nos Alive. O appunto il Paradise of the Cora. E siamo arrivati verso la fine. E uno dei primissimissimissimi nomi annunciati è stato quello di Ty Segall. E abbiamo scelto uno dei pezzi che più abbiamo sentito a Vodafone FM. E quello meno rock and roll. Lui è proprio un rocker fatto e finito. Tratto dal suo ultimo album omonimo a pochissimo tempo da quello precedente, Emotional Mugger, insomma ne sforna veramente 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, uno dietro l'altro. Abbiamo scelto di ascoltare Orange Color Queen. È anche famoso per delle performance, veramente dei concerti trascinanti. Laguna Beach, California, arrivato ai 30 anni. Tra l'altro uno dei suoi collaboratori regolari anche dal vivo è Michael Cronin, che ha lui stesso una carriera solista. E poi sulla scia anche di tanti altri festival, soprattutto anglosassoni, ci sarà anche tra il 14 e il 16 agosto un piccolo festival di cinema, il Fest Cool Down, ovvero organizzato dall'omonimo festival che invece si svolge a Espigno, che sta subito sotto a Porto, andando verso nord, grande spiaggia da surfisti. E questa è una delle tante attività collaterali, le abbiamo nominate veramente tutte. Sono veramente curiosa dei concerti segreti, soprattutto, chissà se riesco a saperli in anticipo come membro della stampa. E come abbiamo detto prima, uno dei primissimissimo nome annunciato è di un gruppo che io amo molto, abbiamo dedicato una puntata di Matt FM a Holy Fire, disco di qualche anno fa, ultimo disco, peraltro non già recentissimo. What Went Down, ormai 2 anni fa, è uno dei pezzi più belli che ricorda un po' la stessa emotività di un altro pezzone come Spanish Sahara. Sono i Falls, i Puledri, che abbiamo potuto vedere l'anno scorso nell'unica giornata dove siamo andati alla live a Lisbona, soltanto quello che mi fa arrabbiare e quello che temo di nuovo è che lui, Yorgos Filippakis, non ce la fa proprio a risparmiarsi la voce e quindi non ce l'ha. Canta, urla, si strozza, si sgola, ma la voce non ce l'ha. Voglio dire, io insomma festival ne ho visti un po' dagli anni 90, Reading, gli anni 2000, Benicassim, e adesso vari festival in terra portoghese. Sono molto emozionata all'idea di partecipare a questo festival di cui ho sentito tanto parlare. Secondo me, appunto, poi chiederò la conferma, un rito di passaggio per tutti i giovani amanti della musica. E soprattutto con la fortuna di poter andarci con chi già lo conosce, chi già c'è stato e con chi è del posto. Come ha scritto oggi Claudia condividendo l'evento, Cora è amor, Cora è parato da vida, come la musica, come questo spot che ha fatto la Vodafone per il festival, dove diverse persone ripetono i voti come una coppia che si sposa, però si capisce che sta sposando con la musica. Prometto di esserti fedele nei bassi e negli alti, negli assoli e nei ritornelli, finché silenzio non ci separi. E il festival finirà nel grande palco principale con i Falls. In realtà finirà poi sempre con gli After Hours, con Throws and the Shine e Nuno Lopez, e noi speriamo di godercelo fino in fondo. Buon agosto, buona estate, Might FM finisce davvero qui. Ciao da Claudia, Mighty Mau. E questo è il ventilatore.